stato insomma scritto il capitolo fine di questa vicenda, una vicenda che va avanti da tanti anni. Stiamo parlando di una palazzina di 3 piani a via Campobasso, il numero civico 18, e lo sgombero è per sfratto esecutivo con forza pubblica, una vicenda appunto che è iniziata più di 10 anni fa con un tentativo sempre di sgombero da parte del proprietario, un famigerato speculatore che possiede decine e decine di palazzine, di appartamenti sparsi nei quartieri popolari e non solo, che affitta a prezzi esorbitanti agli immigrati. Questo è il suo business, è riconosciuto per questo, e a suo tempo provò a farli sgomberare dichiarando pericolante l'edificio. Fu fatto appunto una resistenza, fu dimostrato che non era assolutamente pericolante, anzi fu in qualche modo condannato, diciamo, a ristrutturare completamente il palazzo a sue spese. Questo non l'ha mai fatto, ma le persone che stavano dentro, che avevano un regolare contratto fino a 10 anni fa, ha fatto in modo, truffando insomma le carte o che altro, che diventassero morosi, aumentando a loro insaputa l'affitto, e quindi loro hanno accumulato a loro insaputa una morosità che poi ha fatto procedere fino appunto ad oggi con questo sfratto esecutivo, che è stato rimandato e appunto con presidi e mobilitazioni, un'attenzione insomma sempre alta rispetto a quanto avveniva lì, fino ad oggi, dove si sono presentati stamane, cioè in maniera spropositata, almeno abbiamo contato almeno 15 tra difendere blindati, insomma pulmini insomma per caricare persone, tutti agenti antisommossa, soprattutto carabinieri, tutti con casco, insomma divisa e quant'altro, scudo e manganello, bloccando interamente quel quadrante, insomma quel pezzetto di Pigneto, non facendo entrare nessuno, filtrando tutte le persone. Uno scenario che abbiamo visto tante altre volte, questa volta era completamente, cioè era massiccia la presenza, perché la volontà era di chiudere per loro questa partita, almeno rendendo appunto effettivo lo sgombero. Lo sgombero che è avvenuto con la contrattazione insomma degli abitanti, tutelando le persone dal punto di vista, essendo tutti senegalesi, molti dei quali senza sprovvisti di permesso di soggiorno, senza nessuna identificazione. Ora per noi non si chiude naturalmente la partita qui, il diritto alla casa di queste persone che risiedono, alcuni di loro insomma ultra sessantenni da diversi decenni, almeno 20 anni al Pigneto, fanno parte del tessuto sociale di questo quartiere, e questo quartiere reagirà a questo sgombero infame tutelando gli interessi di uno speculatore strozzino. Quindi viene indetta, è stata indetta alle ore 18 un'assemblea all'isola pedonale per capire insieme insomma agli abitanti di via Campobasso il da farsi, e per questo dicevo insomma che malgrado lo sgombero, che è l'ennesimo, ne ricordiamo uno di pochi mesi fa, insomma, la palazzina a fianco, al civico 16, ugualmente il processo era quello di dichiarare pericolante quell'edificio, abbiamo dimostrato anche in quell'occasione che era tutta una farsa, senza garantire nessun diritto, buttando fuori le persone così, soltanto ad occhio, perché c'era un'incrinatura, e ad occhio non si stabilisce un cazzo. Se vale per gli italiani, vale anche per cittadini che tra l'altro lì attualmente pagano un caro affitto e oltretutto regolare, hanno un contratto 4x4, figuriamoci. Però l'arroganza appunto sia di polizia, amministrazione e proprietari senza scrupoli, voleva comunque liberarsene per dare al mercato ora molto più redditizio di tanti anni, di qualche anno fa, insomma di qualche decennio fa, per il Pigneto, perché gli immigrati hanno soprattutto reso la rendita, garantito la rendita per topaglie che ora vengono vendute a caro prezzo sul mercato immobiliare di Roma, perché il Pigneto è stato a quanto pare rivalutato e non certo riqualificato, perché parliamo comunque di un quartiere dove non ci sono neanche l'allaccio in fogna, dove molte di quelle palazzine che se le vendono a migliaia e migliaia di euro non c'erano manco le fondamenta, l'agibilità edilizia, figuriamoci. Quindi tutto questo è inaccettabile, e quindi verrà garantito a ogni costo, insomma, il diritto ad avere una casa di queste persone che tra l'altro se sudano ogni giorno la pagnotta. Quindi, ore 18, isola pedonale, assemblea pubblica, per il diritto all'abitare di tutti, è tutto.